nostri passi faranno rima su due strade parallele. Canterai le mie canzoni di nascosto da te stessa, le occasioni che il tempo mette a disposizione. E allora lascia le mie mani che ho un bicchiere vino rosso, le mie labbra sono umide e brindiamo a questo giorno e tutti intorno. L'abitudine trionfa e ciò che è stato non sarà. E le foto e i ricordi bruceranno nella stanza ed anelli di fumo colmeranno la mia assenza. E balla e non pensare ad altro, le piante e fiori sull'asfalto. E le foto e i ricordi bruceranno la tua stanza ed anelli di fumo colmeranno la mia stanza. E balla e non pensare ad altro, le piante e fiori sull'asfalto. Ali rosse all'entrata del tuo regno, a colorare il cielo di colori e di origami. E se avrà un figlio, racconta le tue favole. E allora lascia le mie mani, che ha una penna e dell'inchiostro, non strappare le mie ali. E a volte ho voglia di volare ed estraniarmi dal contesto. E questo è tutto, e quel che è stato non sarà. E le foto e i ricordi bruceranno nella stanza ed anelli di fumo colmeranno la mia assenza. E